Messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In Italia ci sono leggi e regole che non vengono rispettate, ad esempio quelle che riguardano la sicurezza stradale. La conseguenza è che ci sono troppi italiani che muoiono sulle strade, perché troppi superano i limiti di velocità consentiti, troppi si distraggono alla guida. Bisogna rispettare il codice, bisogna rispettare i limiti e le regole, perché in questo modo si rispetta la vita. Campagna a cura del Governo, Ministero dei Trasporti.